fa. L'unico problema è tenerti accanto a me. Spero che ti basti uno tranquillo come me. Ai ai ai ai, oh. Ai ai ai ai, na na na. Ai ai ai ai, ah. Ai ai ai. Quando se te cerco aiuto e mi dicono di no, io per non sentirmi solo, sai amore, penso a te. Che mi importa dell'invidia se l'invidia non è in me, ma col sole o con la pioggia la mia strada sono te. L'unico problema è tenerti accanto a me. Spero che ti vada.